Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Da questa mia esperienza, le persone devono capire che è fondamentale stare in casa. La prevenzione è indispensabile per non diffondere l'infezione. Questo può significare anche allontanarsi dai propri cari e dagli amici, perché non sappiamo chi può essere contagioso. Io sono stato molto fortunato perché ho potuto essere curato. Ora potrebbero non esserci medici, personale, mezzi per salvarti la vita. Da questa malattia si può guarire. Queste, care ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le parole del paziente numero uno, vi ricordate, il 38enne di Codogno, che è stato accreditato, diciamo così, come il primo vero caso di contagio da coronavirus in Italia. Sapete che era stato poi ricoverato in condizioni disperate al San Matteo di Pavia, è stato tanto tempo in terapia intensiva, finalmente, già il 9 marzo vi avevo detto che aveva cominciato a respirare autonomamente, oggi è stato dimesso, e questo è il suo messaggio. Dice di essere stato fortunato e nel frattempo lancia naturalmente l'appello a tutti gli altri, dicendo: quando è finito lui in terapia intensiva, era il primo caso, quindi c'era posto, i medici si sono potuti occupare di lui, non avevano tutta quella congestione che c'è in Lombardia in particolare, ma anche in Emilia Romagna, in Piemonte e ormai nel resto d'Italia. Dice quindi: mi raccomando, questo è il suo appello, restate a casa, e lo dico anch'io, restate a casa ad ascoltare Effetto Notte. Tutto il giorno fate poi altre cose, a quest'ora puntuali per sentire Effetto Notte, in modo che un giorno non potrete dire: io questa non la sapevo. A proposito di una notizia importante, vi accompagno tutte le sere per raccontarvele tutte, dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp li potete inviare a questo numero, il solito 349-238-6666, 349-238-6666. Siccome ci sono state varate altre misure restrittive, lo sapete, sabato sera dal Presidente del Consiglio, dal Governo, e poi ci sono delle ordinanze specifiche a livello regionale e locale, dovremmo fare un po' un ripasso delle regole da rispettare, perché c'è un po' di confusione legittima nella popolazione. Quindi tornerà a trovarci come ospite il portavoce dell'Associazione Nazionale dei Funzionari di Polizia. Ci collegheremo poi con la Spagna, dove c'è stata un'impennata incredibile di contagi e anche di morti, in Gran Bretagna, dove ancora il problema sembra sottovalutato, però pare che poco fa Johnson abbia pensato a un lockdown anche per la Gran Bretagna, che significa il coprifuoco, la chiusura, tutti a casa, e poi molte altre cose. Mi raccomando, allacciate le cinture, nel senso, state comodamente seduti dove siete, oppure se state lavorando in casa, qualcuno si mette lo smalto, o qualcun altro sta aggiustando, non so, il lavandino, eccetera, però non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. Possiamo partire. Coronavirus, l'allarme dell'OMS, la pandemia sta accelerando, ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi 100.000 contagi, 11 giorni per 200.000 e 4 giorni per 300.000. Possiamo cambiare il corso della pandemia, dice il direttore generale dell'OMS, ma servono tattiche aggressive. E sono 350.000 i casi nel mondo di contagio, 100.000 i guariti, i morti sono oltre 15.300 e i casi nascosti potrebbero essere il 60%. Il Covid-19 in Italia, sono 63.000 casi, ma arrivano i primi segnali positivi. Per il secondo giorno di fila cala l'incremento di malati e di vittime. Preoccupa il Sud, dimesso dal San Matteo di Pavia, il paziente numero uno che lancia l'appello: state a casa. Le misure per contenere il virus, per i controlli, via libera all'uso dei droni, inizia anche la sperimentazione su nuovi farmaci. La circolazione delle merci, frontiere sospese e code di tir per i servizi essenziali. L'Unione Europea decide corsie verdi per assicurare il flusso delle merci. Lutto nel mondo della cultura, è morto Alberto Arbasino e all'età di 89 anni è scomparsa l'attrice Lucia Bosè. Olimpiadi di Tokyo 2020, il primo ministro giapponese apre a un possibile rinvio. Partiamo quindi dal monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La pandemia di coronavirus sta accelerando, ci sono voluti 67 giorni per arrivare ai primi 100.000 contagi, poi 11 giorni per arrivare a 200.000 e 4 giorni per 300.000. Possiamo cambiare, dice il direttore generale dell'OMS, la traiettoria di questa pandemia. Chiedere alle persone di stare a casa è un importante modo, ma per vincere dobbiamo attaccare il virus con tattiche aggressive, testando ogni caso sospetto, isolando ogni caso accertato, tracciando e mettendo in quarantena ogni persona che è stata a contatto. Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato quota 350.000, lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University, secondo cui le persone guarite sono 100.182, finora i morti 15.328, oltre 10.000 i morti in Europa. Per quanto riguarda l'Italia, per il secondo giorno consecutivo subisce una flessione sia l'aumento tra i malati che quello delle vittime. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 3.780 i positivi in più in 24 ore, mentre ieri erano 3.957. Le vittime in un solo giorno sono 601, mentre l'aumento domenica era stato di 651. Continua la frenata del coronavirus sia in termini di contagi che in termini di vittime. Seconda giornata in controtendenza, dunque, con 601 nuovi deceduti contro i 651 di ieri e 3.780 nuovi positivi contro i 3.957 di ieri. In totale in Italia sono oltre 50.000 malati di coronavirus, 3.204 in terapia intensiva. Una frenata che, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, è il frutto di misure introdotte 2 settimane fa, ma ora la grande scommessa è impedire la diffusione del virus al sud. In questo momento il grande contributo alle curve avviene soprattutto nelle regioni dove c'è una forte circolazione, quindi le regioni del nord. Però la scommessa veramente di queste misure e la scommessa del nostro paese è proprio questa, fare in modo che non si riproducano queste curve in regioni dove oggi la circolazione è ancora limitata. Altra importante scommessa, ha detto Brusaferro, è impedire che nuovi positivi o sospetti trasmettano l'infezione. E intanto il capo della Protezione Civile Borrelli ha sottolineato la grande solidarietà degli italiani. Sono già stati raccolti quasi 26 milioni di euro sul conto corrente della Protezione Civile che verranno usati per acquistare materiale sanitario. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E la tendenza si conferma in calo da tanti punti di vista. Oggi è la prima giornata positiva di questo mese durissimo, iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Questo l'ha detto l'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del virus. La Lombardia inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel, rallenta per il secondo giorno l'aumento dei contagiati e dei decessi. E poi il dato più bello della giornata è il calo dei ricoveri, dato che è il primo giorno che questo succede. Lo ha detto l'assessore regionale al welfare Giulio Gallera, spiegando che le persone ricoverate oggi sono 9.266, quindi 173 in meno di ieri. Oggi posso dire che il trend in calo si conferma. Da tanti punti di vista, forse è la prima giornata, insomma, positiva di questo mese duro, durissimo. I pazienti positivi sono 28.791, 1.555 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato superiore di 1.691, e le persone morte sono 3.776, 320 in più, un aumento inferiore a ieri, quando erano aumentate di 361. Buone notizie per Milano, dove si è ridotta di quasi il 50% la crescita di casi positivi. Continuano a migliorare anche i dati relativi ai nuovi casi nella provincia di Bergamo, mentre peggiorano decisamente in quella di Brescia. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa alla Protezione Civile, ha detto: il nostro grande sforzo è evitare che le curve di crescita del virus viste nelle regioni del nord non si ripetano al sud. La scommessa, ha detto, di queste misure del nostro paese è evitare che si riproducano le curve al sud. L'evoluzione della curva dei contagi è seguita con attenzione anche nelle regioni del centro-sud. Nel Lazio, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 157 nuovi casi e 10 decessi, un dato in calo rispetto a domenica, ma la regione invita comunque alla prudenza. In Sicilia, dopo le lunghe code di auto che domenica si erano formate agli imbarchi per i traghetti a Villa San Giovanni, il governatore Musumeci ha ribadito che nessuno deve più entrare nell'isola, gli unici a poter attraversare lo stretto sono forze dell'ordine, militari, sanitari e lavoratori pendolari. In Abruzzo intanto è salito a 6 il numero delle persone morte dopo essere risultate positive al Covid-19. A Castiglione Messer Raimondo, il piccolo comune del Teramano inserito nella zona rossa, dove si contano una quarantina di casi su poco più di 2.000 abitanti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il controllo della situazione degli spostamenti, via libera all'impiego di droni per l'operazione di monitoraggio appunto degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale da parte delle polizie locali. Le prevede una disposizione dell'ENAC, valida fino al 3 aprile, che consente di derogare ad alcune norme del regolamento sugli aerei a pilotaggio remoto, nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica del coronavirus e delle misure restrittive a livello nazionale, a livello locale. Insomma, per fare un po' di chiarezza, tornerà qui a Effetto Notte il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. E a momenti, se non già dovrebbe essere iniziato in questi frangenti, il vertice di governo e opposizione per il coordinamento dell'iniziativa di governo. Poi ne parleremo tra poco, ci aggiorneremo. Intanto i ministri dello sviluppo economico e dell'economia Patuanelli e Gualtieri convocano per domani una videoconferenza con CGIL e CISL e UIL dopo che i sindacati hanno inviato una lettera per chiedere con urgenza un incontro sul decreto del Presidente del Consiglio di ieri. I sindacati ritengono che molte delle attività non sospese non siano indispensabili o essenziali e chiedono di rivedere l'elenco. Diversi lavoratori di alcune aziende sono un po' sul piede di guerra, minacciano scioperi. Intanto per il settore alimentare Giovanni Rana, naturalmente famoso per la pasta fresca, aumenta gli stipendi del 25% ai 700 dipendenti che sono al lavoro, e poi ai lavoratori dà anche bonus babysitter e assicurazione in caso si contragga il virus. E l'avete sentito che è stato dimesso da San Matteo di Pavia il paziente numero uno, il 38enne di Codogno, ritenuto il primo caso accertato di coronavirus in Italia. Era stato appunto diverso tempo in terapia intensiva, in condizioni disperate, poi lo scorso 9 marzo ha cominciato a respirare autonomamente e dice: io sono stato fortunato, quindi rimanete a casa. Ignorare il numero reale delle infezioni può innescare altre epidemie di Covid-19. Con il continuo aumento dei casi, la comunità scientifica sta cercando di capire la proporzione delle persone asintomatiche o con sintomi lievi che possono contagiare gli altri. Secondo le stime di diversi studi americani, cinesi e giapponesi, le infezioni nascoste potrebbero rappresentare il 60% del totale, come spiega un articolo sul sito della rivista scientifica Nature. Poi continua il problema delle donne maltrattate, che con le misure restrittive sono ancora più a contatto con gli uomini maltrattanti o violenti, e sia la Telefono Rosa e varie associazioni legate appunto ai centri antiviolenza e la stessa ministra per la famiglia Bonetti ricordano che il numero per le emergenze, per le donne che richiedono l'aiuto contro i maltrattamenti, è sempre il 1522, è sempre attivo, 1522. Aumentano i contagi nei paesi europei, critica la situazione soprattutto della Spagna, ma balzo della diffusione del virus anche in Germania, dove intanto la cancelliera Merkel è risultata negativa al test. Poi ci collegheremo con Spagna e Gran Bretagna. Sono oltre 15.000, fa sapere l'agenzia France Press, le persone morte di coronavirus nel mondo, dove i contagi, calcola l'americana Johns Hopkins University, si avvicinano ormai a quota 340.000, tanti anche i guariti, quasi 99.000. In Europa preoccupa l'estendersi dei casi in Spagna, dove solo nelle ultime 24 ore ci sono state 462 vittime. Oltre 33.000 contagi, riferisce il paese, sono più di 2.300 ricoverati nei reparti di terapia intensiva già allo stremo. E mentre sale la curva di crescita dei decessi in Gran Bretagna più rapida di quella italiana, Londra registra un tasso di aumento di contagi superiore a quello di Milano di Bergamo. In tutto il paese le persone infettate sono oltre 5.000, quasi 300 le vittime. Dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, i casi di coronavirus hanno superato quota 32.000 con almeno 400 morti. 8 gli stati che hanno ordinato lo stay home per un totale di 100 milioni di abitanti, quasi un americano su 3. Sono un po' arrabbiato con la Cina, le parole di Donald Trump, che ha riferito in conferenza stampa di avere comunque parlato col presidente cinese Xi Jinping, per il quale nutro rispetto, detto il presidente americano. Le buone notizie arrivano dall'Oriente, con la Corea del Sud che domenica ha registrato solo 64 nuovi casi, portando il totale a 8.961, il dato più basso nel paese da metà febbraio. Ancor meglio fa la Cina, che parla di 0 nuovi casi interni. I contagi registrati, 39, fa sapere Pechino, sono stati tutti importati. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Ecofin oggi ha dato il via libera alla sospensione del patto di stabilità, mentre domani sarà l'Eurogruppo a discutere del MES, il meccanismo europeo di stabilità. Intanto però, dopo una videoconferenza tra i ministri della salute, sono state prese anche delle decisioni congiunte. Ora che tutti gli stati fanno i conti col virus, ora che il virus fa la sua prima vittima anche all'interno delle istituzioni comunitarie, con la morte di un collaboratore italiano, l'Unione Europea mette in atto risposte congiunte e dopo la sospensione del patto di stabilità avvia, ad esempio, l'acquisto centralizzato di tutti i dispositivi, dalle mascherine ai ventilatori, come da subito auspicato dal nostro paese. Una linea congiunta, dunque, contro un'unica emergenza, la stessa che porta la Commissione europea ad istituire corsie preferenziali per la circolazione delle merci. Niente più code fino a 40 chilometri, avverte la Presidente Ursula von der Leyen, ma comune sforzo per garantire il passaggio dei beni in 15 minuti. Ai giorni delle chiusure all'Italia seguono dunque quelli della collaborazione e della solidarietà che porta la Germania ad accogliere 6 pazienti nei suoi ospedali. In questi giorni l'Europa è impegnata anche a far rientrare 200.000 persone ancora bloccate per il mondo, ma a Bruxelles ci si occupa già anche di come far fronte alle conseguenze economiche dell'emergenza preannunciate da ultimo dal crollo di 5 punti della fiducia dei consumatori. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il difficile equilibrio tra la protezione delle persone, delle popolazioni e la tutela degli scambi commerciali. 14 su 26 paesi che aderiscono a Schengen hanno ripreso il controllo delle loro frontiere. Di qui code infinite di tir, problemi di approvvigionamento anche per garantire beni e servizi essenziali come le forniture ospedaliere. Una situazione insostenibile di fronte alla quale la Commissione europea prova a correre ai ripari sollecitando l'istituzione di corsie verdi riservate alle merci. L'obiettivo è garantire un tempo di passaggio alla frontiera dei mezzi pesanti non superiore ai 15 minuti. Dell'atteggiamento intransigente di alcuni governi ha parlato a Radio 24 la ministra dei trasporti Paola De Micheli. Purtroppo ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea con economie più fragili che incrociano la scusa della difesa sanitaria, ma incrociano, sbandierano questa ipotesi in realtà per nascondere un tentativo di bloccare alcune specifiche merci e quindi di ricostruire situazioni di barriere. Su questo la Commissione e la Commissaria si sono impegnati a fare interventi molto duri. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E lutto nel cinema, è morta a 89 anni Lucia Bosè, l'attrice amata da Visconti, con Riso Amaro, Antonioni, La signora senza camelie. È morta oggi appunto a Segovia, in Spagna, vittima, pare, del coronavirus. L'annuncio su Twitter del figlio Michael Bosè. La sua carriera da diva cominciò nel 1947 quando vinse Miss Italia. Ed è scomparso a Roma lo scrittore Alberto Arbasino, aveva compiuto 90 anni a gennaio. Per chiudere lo sport, Olimpiadi, pare che il primo ministro giapponese a Tokyo 2020, a luglio dovrebbero iniziare, per la prima volta il primo ministro giapponese appunto Abe avrebbe aperto a un possibile rinvio delle Olimpiadi, probabilmente a ottobre, ma poi parleremo anche di questo. Per il momento ci lasciamo molto brevemente, 349-238-6666 il numero per i vostri sms o whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Dice per esempio Nicola: cara Roberta, stare a casa è come essere sopra un'arca di Noè, giacere in un'atmosfera ovattata e trasognata, ma totalmente innaturale. Forse ci si salva, ma l'uscita sarà arduo riadattarsi a una realtà mutata e mutante, proprio come costume del vituperato virus che così prenderebbe la sua tetra rivalsa. Diciamo, è poetico, è un po' epico questo scritto di Nicola, però non vi preoccupate, appena sarà possibile io penso che ritorneremo subito alla normalità, almeno con la voglia di vivere, poi si vedrà. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Come sempre, anche all'inizio della settimana, 60 minuti ricchissimi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata, dei vostri commenti e anche degli approfondimenti degli ospiti su vari argomenti, naturalmente per lo più legati a questa maledetta pandemia di coronavirus. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, dove vedo entrambi i canali, già diverse vostre domande che poi potrete porre, porrò io al vostro posto, al portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, perché alcune regole ancora non sono chiare, con un rischio di sovrapporsi forse del decreto governativo governativo con alcune ordinanze locali. Ne parleremo dopo, perché adesso partiamo dopo un po' di tempo che non lo facevo più qui a Effetto Notte con la politica italiana. È chiaro che politica, naturalmente, le decisioni del governo, i decreti, il Cura Italia, il Chiudi Italia, eccetera, di chi appunto sta gestendo questa grande, inedita emergenza della epidemia anche nel nostro paese. Però intendo tornare sulla politica nel senso dei rapporti tra maggioranza e opposizione, no? Che sono naturalmente un elemento essenziale, fondamentale del buon funzionamento di una democrazia. Diciamo che dopo le decisioni prese dal governo, l'opposizione di centrodestra torna a chiedere, chiedeva già in questo periodo a gran voce, di poter partecipare a degli incontri col Presidente del Consiglio, con il governo, e di poter anche fare le proprie proposte, che siano recepite le proprie proposte. E su questo saluto la nostra Betta Fiorito, bentornata cara Betta. Buonasera, buonasera Roberta, buonasera ai radioascoltatori. Allora, dovrebbe essere, non so se è iniziata già, iniziato il vertice tra Conte e l'opposizione di centrodestra. Pare che ci sia stata un po' la mediazione del Presidente della Repubblica Mattarella, Betta, per questo incontro che era chiesto da tempo. Diciamo che sono tutti a Palazzo Chigi, io a quanto ho capito con tutte mascherine, tutte quante le distanze di sicurezza, questo vertice voluto dal centrodestra, però sono tutti andati fisicamente. Forse si poteva fare online, vabbè. La videoconferenza ormai con la tecnologia avanzatissima. Caricare la rete. Si incontrano, succoso, cioè questa cosa che si incontrano i due ex alleati di governo, oggi diciamo così antagonisti, anche che un po' si odiano, che sono il premier Giuseppe Conte e il leader della Lega Matteo Salvini. Cioè il premier Giuseppe Conte, lo ricordiamo quando c'è stata la crisi, no? Con Matteo Salvini accanto al Senato, fa questo discorso, poi Matteo Salvini si alza, se ne va negli scranni della Lega, mentre lui gli diceva che praticamente l'aveva tradito. Quindi, però, insomma, però come stavamo tutti bene allora, Betta, ti ricordi? Cioè, mai avremmo immaginato di questo bene, maledetto virus. Adesso siamo tutti male. E quindi cerchiamo di rimediare, ecco, e si litigava allora come adesso, magari adesso un po' meno, però appunto diciamo che l'opposizione di centrodestra sta chiedendo da tempo, con Salvini, con la leader di Fratelli d'Italia Meloni, di poter in qualche modo incidere anche loro nelle misure, no? Perché con Salvini ha detto ieri o l'altro ieri basta con l'uomo solo al comando, considerano Conte una specie di re sole, mentre dall'altra parte la maggioranza di governo dice non è questo il momento delle polemiche, di rinfacciarsi le colpe, eccetera, ma di remare, come è già stato detto diverse volte, tutti nella stessa direzione. Quindi stasera che cosa si dovrebbe discutere in questo vertice, Betta? Beh, allora bisogna discutere qual è il problema della democrazia, no? Perché ogni tanto noi siamo qui autoreclusi a casa e tutti quanti cerchiamo di rispettare quelle regole fondamentali perché questa pandemia possa scendere. Abbiamo visto un pochino i numeri stanno scendendo, ma i morti sono ancora tanti. Certo. Qual è? Il problema è, questa cosa è democratica oppure no? Questo è un po'. Il Parlamento funziona o non funziona? E questo perché? Lo chiedo a te, funziona o non funziona? Perché Renzi dice riaprite allora, le camere, qualcun altro funziona, dice le camere funzionano? Funziona, ma... è aperto. Mm. Il problema è comunque... lecito tenerlo aperto, intendo dire fisicamente, non intendo dire come funzionamento a livello digitale. È doveroso. Allora, per esempio, Fico, che è una persona della maggioranza eccetera, però è anche una persona Presidente della Camera che appartiene un pochino diciamo così a dei movimenti anche molto della società civile, dice attenzione, digitalmente non si può fare questo voto, bisogna forse fare una sola commissione in modo tale, e poi al limite si convoca la Camera o il Senato. Perché qual è il problema? Noi dobbiamo pensare che 630 deputati venenti da tutta Italia, provenienti da tutta Italia, e 315 senatori provenienti da tutta Italia affluiscano a Roma in questo momento in cui i treni sono bloccati, cioè, allora è difficile far funzionare la democrazia in modo tradizionale. In modo fisico. Vediamo se si può fare in modo, diciamo così, digitale, che potrebbe essere anche un balzo, però noi sappiamo che la rete è molto sovraccaricata, per cui insomma è un problema. Questo è il problema delle opposizioni. Il problema delle opposizioni dicono: noi vogliamo contare in questo momento in cui sembra esserci uno stato di polizia, che non c'è, anche se poi ci sono delle sbafature, ma mi permetterai una piccola chicca alla fine, sì, e che sono più sbafature burocratiche. Il problema è: noi tutti ci stiamo autoregolamentando, ma noi siamo l'opposizione, e l'opposizione cosa fa in un paese? Deve controllare quello che fa la maggioranza. Questa è la democrazia. Allora noi come opposizione, pesi, che vogliamo controllare quello che fa la maggioranza, vogliamo incontrare la maggioranza in questo momento. Questo è una cosa, questa è una cosa fondamentale per il rispetto, perché se no siamo in una dittatura, arrivano i militari, controllano i varchi e tutto va bene, però non è così in Italia. Per allora fortuna. La nostra democrazia va rispettata. Questo incontro è molto importante dal punto di vista democratico. Si può fare online, si può fare online, vediamo, magari rafforziamo anche un po'. Però diciamo, Betta, che al di là del funzionamento, delle modalità, quello che probabilmente il centrodestra chiede è un ulteriore giro di vite, che viene anche questa richiesta da alcuni presidenti di regione e anche da alcuni amministratori locali, no? Tanto è vero che poi cercheremo di fare chiarezza col portavoce funzionario di polizia sulle regole, perché poi si fa un po' di confusione anche a livello di cittadini, ecco, no? Quindi il centrodestra vuole misure ancora più rigorose, vuole che si chiudano, perché mi pare che nella lista annunciata da Conte sul nuovo decreto sabato sera, praticamente, poi c'è stata polemica anche su questo, sull'orario, sul fatto che abbia comunicato tramite Facebook, insomma c'è un elenco di almeno 90 tipi di attività che ancora possono funzionare, no? Quindi il centrodestra chiede invece che siano ristrette ulteriormente le attività, e poi questa polemica sulla comunicazione via Facebook di Conte, qualcuno dice proprio Renzi, lo stesso Renzi della maggioranza, e Salvini, che hanno usato moltissimo loro per fare campagna elettorale, allora, per fare politica i vari social. Dica. Allora, io ti dico questo come giornalista parlamentare. Io non vado più sui siti ufficiali, scusate, ma qui probabilmente c'è un altro messaggino. Su cosa sei seduta, Betta? Scusate. Questo è Salvini, secondo me. Salvini che non mi va quello che stai dicendo. Sì, è tipo Betta. Salvini che o Renzi, dice chi siamo è? Qui a Palazzo Chigi. Vabbè, detto questo, la cosa fondamentale è: io come giornalista politica vado sui siti di Facebook. Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giuseppe Conte. Cioè io non vado più sul sito del governo, ma anche Nicola Zingaretti, quando c'è stata l'assemblea del PD. Quindi dice, ha voluto essere alla pagina, certo, anche Conte dice questo è il canale cercare... più frequentato. Sì. No, e vado direttamente su Facebook, sui loro profili. Però la cosa che secondo me non va bene, si può andare su Facebook, sul tuo profilo, caro Giuseppe Conte, però il primo profilo è quello del governo. Poi che tu possa replicare questo profilo su Facebook, beh, va benissimo. Altra cosa, e ti vorrei un attimo parlare dei cittadini, cambia di nuovo l'autocertificazione. Sì, questo lo sentivo poco Roberta, fa. Ma lo ci rendiamo conto che il 90% dei cittadini italiani non possiede una stampante a casa? Cioè noi stiamo chiedendo che tu dica, io allora ogni giorno io mi devo stampare un modulo, no? Sì. Ma chi ha la stampante a casa? Noi siamo tutti reclusi a casa, tranne che per motivi di lavoro. Non è possibile che questa autocertificazione cambi 20 volte in una giornata, ogni giorno cambia. Allora devi dire io non ho il coronavirus. Vedi che qualcuno quando dici cose che ogni giorno scheda verde, grigia, gialla, ma chi le stampa queste schede? Hai ragione, Betta. Infatti tra poco lo chiederemo al portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Ma dai, ma questa è burocrazia pura. Sì, siamo d'accordo. È burocrazia pura. Allora, diciamo che questo modulo dell'autocertificazione tu me lo metti, io lo posso compilare a mano e va bene uguale. Ma non mi puoi cambiare il modulo di autocertificazione ogni giorno in un paese in cui il 90% dei cittadini non possiede una stampante a casa. Allora io faccio una proposta: distribuite a ogni cittadino una stampante, o se no che l'autocertificazione sia una, no, sia quella, sia basta. O distribuite i moduli. Sì. Allora io mi fermo la polizia, la stampante che uno così se la tiene. Distribuisce il modulo. Va bene, io lo autocompilo con il mio certificato, con la mia patente, con la mia carta di identità. Ce l'hai la patente? Va sì. Bene, coi guanti pure, i guanti quelli da chirurgo. Ma non puoi pensare che in un paese in cui la maggior parte delle persone non hanno una stampante a casa, ogni giorno c'è sto problema a chi mi stampa sto modulo. Beh, allora, è meglio averlo, però è anche vero, vediamo se è ancora vero tuttora, tra poco col prossimo ospite, che se ti fermano e non hai questo modulo, lo puoi compilare lì al momento, te lo danno loro le forze dell'ordine. E me lo devono dare, però. A proposito delle polemiche, ti faccio sentire solo due audio a questo punto, perché siamo un po' in ritardo. Duva, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che a proposito delle critiche dell'opposizione dice il governo sta facendo tutto il possibile. Questo virus va combattuto senza tregua. Servivano interventi economici e ne abbiamo fatto subito uno con un impatto da 350 miliardi. Servono mascherine e altri dispositivi? Ne stiamo facendo arrivare milioni da tutto il mondo. Ora siamo a livello più alto di restrizioni. Questo significa che dobbiamo continuare a monitorare i dati e fare tutti gli sforzi possibili. E poi invece c'è per esempio un presidente di regione come Cirio, presidente della regione Piemonte, che chiede a sua volta misure più restrittive, come anche Fontana della Lombardia, che però oggi ha detto vabbè, devo capire se è preminente la mia ordinanza o se invece devo applicare il decreto del Presidente del Consiglio. Non si possono più fare gli spostamenti dalla prima casa alla seconda casa. In secondo luogo abbiamo sospeso tutte le attività degli uffici pubblici di nostra competenza, della Regione Piemonte, perché questa ordinanza io l'ho fatta col criterio di dire, nell'attesa che il governo faccia e prenda le sue decisioni, nell'impossibilità che io ho di aspettare, perché io non posso aspettare, io voglio chiudere tutto ciò che è nel potere del Presidente della Regione Piemonte chiudere nella mia regione. Questa è la logica dell'ordinanza che abbiamo adottato. Insomma, questa tensione tra governo e alcuni presidenti di regione, amministratori locali, un po' rimane. Betta, dici tu, dacci un suggerimento, che cosa fai a casa tranne lamentarti, a parte lamentarti di non avere una stampante e amici e parenti e marito e tutto di Betta Fiorito, il prossimo regalo una bella stampante. Per il resto che cosa fai nei momenti? No, ma io diciamo... ce l'ho la stampante. Io non ce l'ho, io ce l'avevo, adesso non ce l'ho. Mi ero liberata di questa stampante. No, io ce l'ho la stampante e sto stampando anche per i miei vicini. Ah, io mi metto nei vicini di Betta Fiorito, tutti a casa, anzi davanti alla porta, no, di Betta Fiorito. Nei panni di chi non ce l'ha. Io lavoro. Molto bene. A parte lavorare. Noi lavoriamo, come Radio 24, chiaro, in redazione, quando dobbiamo essere e siamo obbligati per certe cose, tipo il giornale radio. Io tutti i giorni, e tu che fai giornale radio, giustamente quando è necessario. Redattori, capi servizio, eccetera, che devono condurre. A parte lavoro. Devono essere ma a casa obbligati. Che fai? Dopodiché, quando io non sono lì che lavoro, eccetera, e faccio smart working, e quindi quando lavoro. Sì, anch'io lavoro, sono qua. E poi faccio yoga, per cercare di fare sport a casa. Oh, brava. Faccio yoga. Cerca di farci immaginare molto brevemente via radio una posizione dello yoga che si potrebbe fare a casa. Vediamo se ci riesci. Allora, bisogna praticamente fare il saluto al sole, questo è yoga per tutti, fai il saluto al sole, che sono praticamente 4-5 posizioni, si possono trovare dappertutto sul web, e le puoi fare per 3-4-5 volte, smuovono un pochino l'energia, cercano di non farti ingrassare troppo, perché l'altra cosa è che stiamo tutti a cucinare e quindi stiamo tutti a mangiare e quindi stiamo dei profumi arrivano dai balconi. Roma. Va bene, grazie cara Betta Fiorito, buon yoga a te. Grazie a voi. Che dà tanto equilibrio naturalmente, saluto al sole anche quando piove e vedrete che magari un pochino più di luce ci sarà. Grazie cara Betta Fiorito, ci fermiamo brevemente, pausa di riflessione e di respiro e voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Tra poco cerchiamo di ripassare queste benedette regole. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando un programma assolutamente antivirus, perché più ascoltate Effetto Notte, più lo conoscete, più evitate il virus. Roberta Giordano, naturalmente, sempre con voi a raccontarvi una sintesi iniziale della giornata, tutto quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per lo più purtroppo tutto legato e collegato alla pandemia di coronavirus, e poi gli approfondimenti con gli ospiti. Abbiamo parlato di politica, di questo vertice in corso tra governo, Conte e opposizione, che vuole contare di più, incidere di più nelle misure e nei provvedimenti che vengono decisi in questo periodo di veramente di inedita emergenza. E adesso, siccome anche nell'approfondimento di prima sono venute fuori insomma un po' di questioni poco chiare delle regole che tutti i cittadini devono rispettare in base alle nuove misure annunciate sabato sera dal Presidente del Consiglio, che sono un'integrazione rispetto al decreto precedente, che però molti si aspettavano più severe, più rigorose, e poi la richiesta dall'altra parte di presidenti di regione, vi dicevo, amministratori locali, con qualcuno che già emette delle ordinanze proprie locali, quindi diventa un po', c'è il rischio di generare un po' di confusione nella popolazione, ma forse anche un pochino nelle forze dell'ordine, che poi devono far rispettare queste regole. Allora, è quindi indispensabile il ritorno, direi il pronto intervento, del dottor Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, che qui ritorna a Effetto Notte. Buonasera, dottor Laquaniti. Buonasera, dottoressa Giordano. Buonasera agli ascoltatori. E grazie della disponibilità. Le domande sono ancora tantissime, insomma riusciremo a evaderne alcune, però l'importante è partire sempre da una sintesi che lei può fare all'inizio, proprio per ricordare le regole fondamentali, perché di nuovo c'è qualcuno che dice i genitori separati possono raggiungere i figli anche a distanza di chilometri, per esempio, o qualcuno che dice sempre lo solito dubbio del poter fare attività sportiva. Abbiamo capito che tutti i parchi, anche quelli non recintati, ormai sono vietato l'accesso in qualsiasi regione, in qualsiasi luogo, però in alcune situazioni, in alcune realtà si può fare dell'attività sportiva sotto casa a 200 metri, 300 metri di distanza, in altre no. Quindi come possiamo districarci, Laquaniti, in tutto questo ginepraio? Allora, ci districhiamo, cerchiamo di farlo ricordandoci, uno, che bisogna rimanere il più possibile a casa, due, che i diritti fondamentali della persona rimangono tutelati, e quindi per quanto riguarda per esempio i genitori che sono separati, e quindi il loro diritto inalienabile di mantenere contatti con i loro figli è assolutamente garantito, anche allorquando magari si trovano in comuni diversi. Ma in questo caso, mi perdoni Laquaniti, lì bisogna avere un certificato, qualcosa in mano da mostrare, o cosa? Beh, o basta la parola? Ecco, no, allora, l'autocertificazione comunque fa sì che chi dichiara determinate cose è poi soggetto ai controlli, per quanto a campione delle forze dell'ordine. L'autocertificazione non è un modo per raccontare, mi perdoni il termine, una balla così alle forze dell'ordine, che tanto se la bevono. Può aiutare, può facilitare e può evitare anche a noi, diciamolo francamente, un controllo successivo il fatto per esempio di avere copia del provvedimento di separazione o di affidamento dei figli o il diritto di vedere i propri figli. Teniamo conto che tutti questi spostamenti ovviamente devono essere fatti nelle date previste, laddove ci sono dei limiti imposti dal magistrato, e sempre nel tragitto più breve. Quindi diciamo che per quanto riguarda assecondare il diritto dei genitori separati a vedere i propri figli, mi sento proprio di non aver alcun dubbio, anche allorquando, ripeto, si tratta di comuni diversi. Il discorso diventa invece più complesso e più complicato per quello che si è dimostrato il vero vulnus, il vero elemento di debolezza, e cioè quello della possibilità di fare passeggiate, attività fisica, portare i nostri animali di affezione a fare un giro. Proprio per questo ormai credo che quasi tutte le regioni italiane, addirittura abbiamo provvedimenti anche di rango comunale fatti da sindaci magari diversi tra comuni limitrofi, per cui mi sento di dire che ormai quasi ovunque queste attività sono consentite in un raggio limitato dal proprio domicilio. La maggior parte delle regioni ha fissato questo distanza in circa 200 metri. Mi chiedo una cosa, dottor Laquaniti, appunto, al di là che è importante che lei lo chiarisca, che la gente lo sappia, perché chi desidera farlo può farlo. Ho sentito di qualcuno che diceva che gli lanciavano strali da un balcone perché correva sotto casa, come se fosse vietato, come se fosse l'untore quello che metteva in pericolo tutti. È no? uno degli aspetti, guardi, su questo è uno degli aspetti che noi abbiamo evidenziato anche al legislatore, agli esponenti politici, perché quello che noi registriamo è questo innalzamento pericolosissimo dell'assio che vediamo tra gruppi di cittadini, tra coloro i quali reclamano il loro diritto a mantenere uno stato psicofisico accettabile e l'attività fisica, soprattutto per alcune patologie, diventa fondamentale, e chi magari ha dovuto anche chiudere la propria attività commerciale e in un momento di particolare sofferenza rispetta le regole, vedere qualcuno che passeggia, notiamo che incomincia a portare a dei sentimenti di insofferenza forte. Credo che anche in queste ultime ore ci sia stato un fatto di cronaca particolarmente grave, addirittura un contadino che voleva rimproverare chi stava passeggiando dentro i campi, qui siamo nella regione del Lazio, sì, ho visto, e addirittura è sfociato in una lite che ha portato alla morte. Ecco, noi questi elementi purtroppo li abbiamo evidenziati perché nel momento in cui si ha la percezione che qualcuno stia prendendo in giro i provvedimenti, che a causa di queste persone noi abbiamo ancora più limitazioni, ancora più rischi, il dramma è che passi un concetto quasi della giustizia fai da te. Proprio per questo crediamo sia opportuno che l'intera normativa sui limiti agli spostamenti sia di rango nazionale, e quindi, come posso dire, tutti gli aspetti che adesso vengono magari gestiti legittimamente, lo sottolineo, alle regioni, possano avere un'unica regia e sapere che in tutta Italia valgono per tutti le stesse regole. Quindi una preminenza del decreto governativo sulle ordinanze locali, perché sennò non ci si capisce più niente. Però Laquaniti, quindi, al momento, ricordiamolo, è legittimo che una persona sotto casa, se ha bisogno di fare questa corsetta nell'ambito appunto delle strade che sono proprio sotto casa sua, lo può fare. Quindi non è fatto salvo perché addirittura in alcuni comuni, questo lo devo precisare, in alcuni comuni sono intervenute ordinanze sindacali dei sindaci che vietano addirittura questo tipo di attività. In questo caso la sanzione non è penale, è una sanzione di carattere amministrativo, quindi non lascia strascichi sul nostro casellario, però comporterà l'esborso di una somma di denaro. Complessa quindi la questione, appunto, se non c'è un decreto, un'omogeneità a livello nazionale come lei auspicava, Laquaniti. Senta, chiede Fabio, chiarisce le seconde case, tanti pensano che ci si possa andare il martedì, il mercoledì, il giovedì. No, lo escludiamo, tra un po' ci sarà la Pasqua forse più anomala di tutti i tempi. Già. Nelle seconde case, tra l'altro nelle seconde case non si poteva andare neanche prima, perché in realtà le disposizioni del nuovo decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri ha limitato anche il rientro al proprio domicilio, alla propria residenza. Provo a spiegarmi per essere più chiaro. Nelle seconde case, quindi nei luoghi dove noi non abbiamo né residenza né domicilio, non ci si poteva andare prima e a maggior ragione non ci si può andare adesso. Non si può andare per il weekend, non si potrà andare per Pasqua. Qual è la ratio di questo ulteriore inasprimento delle misure per il rientro nel domicilio, nella residenza? È chiaro che all'indomani della chiusura di molte attività produttive, aziende e industrie che non appartengono a quelle attività che producono beni o gestiscono servizi di prima necessità, il timore era quello che ci fosse un'ondata di lavoratori che magari aveva voglia dal nord di rientrare dai propri familiari e dai propri amici e dove magari si è mantenuta la residenza. Ecco, questo adesso non è più possibile. Faccio l'esempio su di me: io mi muovo molto per motivi di lavoro, ho il mio domicilio a Verona dove lavoro, ho mantenuto la residenza a Roma dove sono i miei affetti. Io in questo momento non posso rientrare nel mio luogo di residenza. Chiaro, è chiarissimo, non lo può fare lei, non lo può fare nessuno. La Quaniti, adesso ancora molti dubbi sulla questione dell'autocertificazione, è ancora cambiato il modulo, però ricordiamo che se una persona che sta legittimamente viaggiando in macchina perché va al lavoro, perché ha un'emergenza sanitaria, insomma che lo possa provare, può compilare al momento con le forze dell'ordine un'autocertificazione, ancora adesso la Quaniti? Sì, è ancora previsto che gli operatori di polizia abbiano le autocertificazioni, quelle tra l'altro le abbiamo ulteriormente cambiate in base al nuovo DPCM. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire è sempre preferibile avere con sé l'autocertificazione, perché questo snellisce, accelera i tempi di controllo, di verifica da parte degli operatori. Non avere con sé l'autocertificazione di per sé non costituisce reato, però è chiaro che si perderà un po' più di tempo nel controllo. Ecco, se andate di fretta è sempre meglio che abbiate con voi l'autocertificazione già compilata. Chiaro. Direi che per il momento, dottor La Quaniti, anche se le domande sono ancora tante, insomma le cose essenziali le abbiamo chiarite al momento, no? Non c'è altro da aggiungere, direi. No, c'è da aggiungere la speranza davvero che tutto questo possa finire il prima possibile. Io mi sento di dire che i nostri operatori stanno continuando a lavorare, ci consultiamo tutti i giorni per interpretare al meglio possibile la norma. L'auspicio è comunque che ognuno faccia la propria parte, questo io l'ho detto, mi permetterà di ripeterlo. È una legislazione che non ha precedenti nella nostra storia repubblicana, neanche nei tempi del terrorismo. C'è stata necessità di ricorrere a una legislazione speciale di questa portata. E soprattutto è una norma che riguarda 60 milioni di italiani. Ogni tanto con i miei ragazzi dico, se anche uno solo su 10 non rispetta la norma, vuol dire che ci sono 6 milioni di persone, quindi è una portata a cui non siamo abituati. Certo. Grazie ancora una volta e buon lavoro, dottor Girolamo La Quaniti. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. A presto. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Vedo che poco fa il primo ministro britannico Johnson ha ordinato il lockdown nel Regno Unito, cioè anche lì il coprifuoco, tutti a casa. Ci collegheremo tra poco con la Gran Bretagna, intanto però ci colleghiamo con la Spagna, con Jorge Mari Rodriga, editorialista del quotidiano Il País. Buonasera Jorge, bentornato. Buonasera Roberta. Allora, mentre nella classifica dei paesi più colpiti nel mondo da coronavirus vede i primi tre posti la Cina, l'Italia e gli Stati Uniti, però preoccupa fortemente l'impennata di contagi e di morti in Spagna. Ho visto, Jorge, anche fotografie impressionanti negli ospedali di Madrid, addirittura di pazienti per terra nei corridoi in attesa di un posto. Certo, oggi è stata la giornata peggiore dall'inizio della crisi, con 462 morti, ma purtroppo devo aggiungere che questa non sarà la giornata peggiore. Sicuramente durante tutta questa settimana questi numeri saliranno. Secondo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, questa settimana sarà specialmente dura per tutti e speriamo il peggio nelle notizie di morti. E quindi il sistema sanitario, tu dicevi, ci ricordavi nei giorni scorsi, è gratuito, è piuttosto buono, però mi sembra che sia già in ginocchio, soprattutto appunto nella capitale, Jorge. Certo, appunto per quello l'esercito spagnolo ha fatto diventare lo spazio della Fiera di Madrid, che è un complesso gigantesco, in un ospedale militare con 5.500 letti, dei quali 1.200 sono per intensivi. La preoccupazione del governo e di tutti noi è sapere se il sistema resistirà o arriverà a un punto nel quale gli ospedali non saranno capaci di accettare più malati. Come tu hai detto, nelle immagini che si possono vedere adesso, sono i malati per i corridoi, i medici sono assolutamente esausti, lavorano 24 su 24 ore, ma ancora c'è la speranza di che il sistema sanitario possa resistere. E ve lo auguriamo di tutto cuore, Jorge Mari Rodriga, e ci aggiorniamo presto. Grazie Jorge. Grazie a voi Roberta. Ciao. Un abbraccio, ciao. Colleghiamoci subito con la nostra Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Giorgia. Buonasera. Bentornata cara Giorgia. Allora, era annunciato un discorso che avrebbe tenuto il primo ministro Johnson questa sera e la cosa più importante, quella che ci si aspettava, da che è stato negazionista fino a pochi giorni fa insieme a Trump, no? I gemelli separati alla nascita, sembra adesso ha ordinato il lockdown anche nel Regno Unito. Ebbene sì, la tensione con i numeri che salgono in maniera accelerata si sta sentendo sempre di più, siamo 2 settimane dietro all'Italia e quindi finalmente Boris Johnson ha ceduto alle pressioni dell'opinione pubblica e ha detto dobbiamo fare di più, dovete stare a casa e quindi da stasera ha annunciato che si potrà uscire soltanto per comprare cose necessarie come cibo e medicine, si potrà fare una forma di esercizio fisico al giorno o una corsa o una passeggiata, un giro in bicicletta, si potrà uscire soltanto per recarsi al lavoro ma solo se strettamente necessario o per accudire familiari. Ha fatto di più, ha detto, ho visto ieri la stangata, il giorno della festa della mamma, il primo giorno di sole, tutti comunque fuori nei parchi, questa volta ha detto se queste nuove direttive non saranno rispettate la polizia avrà ora il potere di intervenire e quindi da domani saranno vietate le aggregazioni di più di 2 persone e saranno bloccati tutti gli eventi sociali, matrimoni ad esempio, questo per almeno 3 settimane. Giorgia, tra l'altro, appunto, fino, dicevamo, a pochissimi giorni fa, no, addirittura lui voleva l'immunità di gregge, che si ammalassero tutti, in modo che poi, secondo lui, dopo erano tutti immuni. Mi pare di aver visto, adesso pare abbia cambiato idea improvvisamente, addirittura col lockdown per tutto il Regno Unito, però stamattina ho visto bene una fotografia della metropolitana di Londra stracolma, ancora? Sì. Sì, le metropolitane sono ancora piene di persone, così come i trasporti pubblici, e questo perché fondamentalmente ha pensato a varare una manovra di 350 miliardi di supporto in prestiti alle imprese, ma è molto grande quella fetta di popolazione, sono 4 milioni e 800 persone freelancer e lavoratori autonomi che comunque non hanno avuto nessuna disposizione e che pensano dobbiamo continuare ad andare a lavorare, quindi sì, molti sono i pendolari, le persone che prendono la metropolitana, ha una capienza di 5 milioni al giorno, un po' ovviamente si è ridotta, però considerato che le distanze sociali di 2 metri tra persone non vengono recepite, capite che il pericolo è forte. Certo, purtroppo è arrivato in ritardo, ma speriamo che qualcosa si possa fare. Ti abbracciamo Giorgia Scaturo, mi raccomando bada a te Giorgia, che ci teniamo, va bene? Grazie, e anche voi. Grazie, un abbraccio, ciao Giorgia. Ora con il nostro Dario Ricci ritorniamo sullo sport, ciao Dario, che ciao, piano ciao, piano Roberta, di volta in volta, ben ritrovato a te, graduali stop dei vari settori, molto lentamente, varie discipline sportive, finalmente si è preso consapevolezza. Gli ultimi a resistere erano gli organizzatori di Tokyo 2020, no? L'evento sportivo più atteso dell'anno. Storicamente i giapponesi appunto sono gli ultimi ad arrendersi ed è normale che sia anche così, visto quanto importante sia l'Olimpiade di Tokyo 2020. Tra l'altro, permettimi di farmi un po' di pubblicità, domenica dedicheremo una puntata di Olimpia alle 16.30 qui su Radio 24 a un'altra Olimpiade che doveva essere di Tokyo e di Tokyo non fu, quella del 1940. In quel caso fu la guerra nippo-cinese. Insomma, non sono fortunate le Olimpiadi. Sì, ecco, esattamente, diciamo. Non è proprio pensa che poi queste del 2020 gli erano state assegnate anche sulla scia del disastro di Fukushima, no? Quindi insomma nucleare. Il Giappone ha sicuramente una storia travagliata, questo amore per i 5 cerchi. Oggi è stato lo stesso premier Shinzo Abe ad ammettere di fatto in Parlamento che un rinvio è allo studio, no? Sulla scia di quanto aveva detto appena 24 ore prima il CIO. Adesso ci sono varie ipotesi. Si pensa a uno slittamento, la prima ipotesi è uno slittamento di 4 settimane. E questo è Shinzo Abe. Ecco, non chiarissimo, è chiarissimo, non ha proprio di tradurlo, detto che è meglio rinviare della mia esegesi, sì. Diciamo, la prima ipotesi è lo slittamento di 4 settimane rispetto al 24 luglio, che ancora oggi è la formale data d'inizio. Altri ipotizzano invece uno slittamento ad ottobre, quindi sempre nel 2020, ottobre che era stato anche il mese che aveva ospitato i giochi sempre a Tokyo nel 1964, ma di fatto è sul tavolo sono anche altre opzioni. Molti media americani, ed è l'America che detta il gioco in questo senso, perché come già abbiamo detto in queste occasioni E qui ad effetto notte i contratti televisivi più importanti sono quelli con i network americani. Molti media americani ipotizzano un rinvio al 2021. Intanto paesi importanti a livello di cinque cerchi olimpici come il Canada ha fatto già sapere che comunque non invierà in questo 2020 i propri atleti alle Olimpiadi di Tokyo, e l'Australia ha fatto sapere di aver detto ai suoi atleti di lavorare già per il 2021. Decisione definitiva del CIO che arriverà da qui a un mese, ma insomma il rinvio direi che è cosa fatta. Cosa praticamente scontata. Grazie caro Dario. Grazie Ricci. Ciao caro Dario. Sentiamo le 22.